Nel mio cuore giacciono parole sepolte da un colore, calore di una terra arida, rossa sulla pelle come fango, come ghisa arrugginita. Siamo soldati placati solo dai nostri manti, che mettiamo come armati di altre tecniche d'occulto. Siamo la parola in frutto, siamo l'espressione in lutto di un amore che non ci sarà mai con te. Mi hai stretto la mano e l'ho stretta e sai che c'è, non provo più niente, non provo più niente, non provo più niente. Volevo dimostrarti che valevo stare tranquillo senza uno sclero, dimostrarti che ero uno poco violento, anzi non violento, anzi come Gandhi. Vorrei che queste mani grandi toccassero il cielo e chiedessero a Dio: perché hai fatto queste donne così sotto sclero? Perché questo siero della verità corrode la mia anima? Prega per me e che sia una scala facile verso l'aldilà. E vorrei stringerti le mani un'ultima volta, parlare come se non ci fosse un'altra volta. Vorrei fare come essere in pieno ritmo con questa canzone, trovare un ritornello, qualcosa, un'occasione, una parola efficace per farti splendere. E te audace, dirmi sì in ogni mia parola, tu verace di parole che mai cercherò e mai troverò così efficaci da dirti. Ti amo veramente, non è come tutta l'altra gente, ma tu non accetti niente, le parole che dovrebbero sorreggere il cuore rimangono qui in un malore, calore, la mia passione, terrore di perderti. Forse non siamo destinati a stare insieme, tu amicizia mi leghi con queste poche catene, che io mi libero in fretta, sai, dimentico, sì, fragile, non sono uno facile, sai, non sono andato a letto con tante donne, ma una cosa la so, c'è un cuore, almeno io, e qua rimarrò ancora solo per tutta la notte. Non c'è nessuno a bussare alle mie porte, nessuna donna, nessuna dama, ma porca puttana, e vorrei spiegarmi con te, trovare la soluzione, l'enigma alle tue porte. Toc toc, chi parla? Sono fango. Vorrei stringerti in un talamo, addormentarmi con me per sempre. Adios.